Amici di Web Radio Luzzi, benvenuti a questa nuova puntata di Sulla linea d'ombra. Questa sera ci occuperemo di un argomento particolare, secondo me anche questo argomento interessa moltissimo tutti noi, perché tutti noi rincorriamo fin dalla nostra nascita questa cosa, oppure speriamo di essere baciati da questa cosa, appunto. Non so se voi avete capito a cosa mi sto riferendo. C'è una cosa che tutti inseguono, che tutti vorrebbero avere, di cui si cerca di essere baciati, e solitamente nell'immaginario comune è bendata. Dopo tutte queste nozioni che vi ho dato in merito a questo argomento, penso che voi tutti abbiate capito a cosa mi riferisco. Ebbene sì, amici, mi sto riferendo alla fortuna, perché questa sera parleremo di fortuna. Che la fortuna ci assista, quindi tutti noi diciamo che il nostro anelito principale è quello di essere fortunati nella vita. Quante volte diciamo, ah, che è fortunata quella persona. Vorrei essere baciato dalla dea bendata. Questa sera ho scelto questo argomento perché oltre ad essere molto sempre attuale dalla notte dei tempi, è secondo me molto interessante. È davvero molto interessante. E quindi mi piacerebbe discorrerne con voi. Spero che sia di vostro gradimento anche questa scelta di questa sera. Inizio col dirvi che dalla notte dei tempi gli uomini sono convinti che esista la fortuna e che essa sia capricciosa. Quindi solitamente la fortuna nell'immaginario comune è una donna, e questa volta, naturalmente, come si dice di tutte noi donne, che è capricciosa. Infatti, nell'articolo c'è scritto come tutto ciò che è femminile, nel senso che bacia alcuni ed altri no, per cui averla dalla propria parte è sicuramente fonte di grandi possibilità nella vita. Certo, tutti i miti sulla dea bendata oggi ci fanno tenerezza perché ci riportano i nostri antenati che, non essendo ancora padroni delle loro potenzialità, si affidavano totalmente a qualcosa di esterno che quando premiava era vissuto come fortuna e quando non rispondeva nel modo giusto veniva percepito invece come sfortuna. Certo, l'uomo moderno ha una diversa modalità di pensiero ed una maggior consapevolezza dei suoi meccanismi interni. Tuttavia, l'idea della fortuna è ben lontana dall'essere superata. A volte è vero che è meno pesante incassare una sconfitta se si pensa di essere stati sfigati, mentre invece qualcun altro ha avuto la fortuna dalla sua parte e gli è andato tutto bene. Questo penso che sono cose che noi tutti sappiamo. Io procedo nel leggervi questi articoli perché ne ho veramente trovati tantissimi. Diciamo che è molto difficile da una parte rinvenire degli articoli che trattino questo argomento in maniera abbastanza congrua e pulita, anche perché si chiede molto spesso l'opinione. Ho rinvenuto su siti internet tipo nell'argomento fortuna, nella sezione fortuna, numeri fortunati da poter giocare e quant'altro. Infatti la fortuna ha molto spesso a che vedere con il gioco. Io penso che fra voi ascoltatori ci siano tantissime persone che giocano al totocalcio, giocano alla schedina, giocano all'Enalotto, giocano al lotto. Diciamo che la fortuna molto spesso viene associata al denaro, anche se diciamo che questa qui è una prerogativa prettamente della società attuale, della società economica in cui noi tutti siamo diventati materialisti, purtroppo bisogna dirlo. Io adesso non è che voglio fare la morale da un sito internet, nella fattispecie da una rubrica che ha a che fare con tutt'altro tipo di argomento, perché non è una mia volontà, ecco, fare questo. Non mi permetto di dar consigli a nessuno e di criticare nessuno. Però è molto spesso affiancata a questo ambito qua, ovvero all'ambito del denaro, quindi fortuna uguale denaro. C'è anche il gioco fortunati al gioco, sfortunati in amore, sfortunati al gioco, fortunati in amore, insomma. Si associa solitamente a queste due sfere, alla sfera economica e alla sfera amorosa, diciamo, sentimentale. La divinità che incarnava questa particolarità era già presente nel mondo greco e il suo nome era Tyche ed era la dea della fortuna, rappresentava sostanzialmente il caso divinizzato e personificato in una figura femminile. Bene, amici, io prima di avviarmi e di addentrarmi completamente nell'argomento fortuna, Io vi lascio ad una breve pausa musicale e mi raccomando restate con noi perché l'argomento questa sera mi sembra molto interessante e la scelta dei brani dei ragazzi lo sono anch'essi.